siamo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato anche questo mercoledì insieme su Radio Città Fujiko, ma questo è un mercoledì particolare perché lo staff di Dedicato ha deciso di aprire le porte dello studio e raccontarvi e farvi ascoltare quello che succede qui da noi. Sì, cioè non so se vi conviene in realtà perché siamo una maggioranza di musicisti abbastanza numerosa, è proprio una vera e propria maggioranza. Quindi solitamente sono quasi tutti batteristi, ma in realtà abbiamo nascosti nel cassetto anche chitarrista, bassista, pianista, tastierista, cantanti abbastanza. Il problema è quando i batteristi decidono di cantare, ma quella è un'altra storia che ascolterete dopo, povere le vostre orecchie. Quindi cosa succede oggi? Succede che tra un brano e l'altro arriveremo con delle incursioni sonore piacevoli e non, perché sono le prove dei nostri ragazzi, proprio lo staff di Dedicato al completo. Devo dire che sì, non manca nessuno, cioè ci siamo proprio tutti. Abbiamo registrato alcuni momenti salienti, simpatici, ma anche antipatici del nostro studio. E i ragazzi suonano, chiacchierano, succederanno cose, ci conoscerete un po' meglio, anche perché i nostri fanciulli ci tengono, insomma alla fine sono presenti sempre, da sempre, lanciano idee, creano percorsi, partecipano a sondaggi, fanno interviste, però li avete sentiti suonare il giusto. Allora abbiamo deciso proprio di aprirvi le nostre porte e quindi ragazzi, in bocca al lupo. Però dobbiamo andare in radio con questa roba, quindi cioè diciamo parolacce fino a un certo punto, fino allora, a un punto sì. X, poi dal punto Y. Sì, allora lo faccio apposta. Cioè, ok. Vabbè, possiamo censurare parolacce con un suono di batteria, suono, tanto sì, non sì. Abbiamo problemi da questo punto di vista, certo. Si registra, insomma. Abbiamo 4 batteristi e un chitarrista, povero chitarrista. Cioè, vabbè, comunque dai. Fate qualcosa, ma vogliamo provare già dei pezzi? Tipo... Cosa fate? Improvvisate, scherzeggiamo. Bravi. Siamo in tutti i media. Nel modo scurrile, dai, fate una roba improvvisata carina, insomma. Fate quello che volete, però sì. Carino. Ecco, con 2 batteristi forse ho chiesto troppo. Che cos'è? Cos'è questa? Rage Against the Machine. Okay. Cioè, il gruppo, la canzone è Bulls on Parade. Grazie. Quenching the thirst of the power dawn. That fireside fits the car. That rock and soar on the full of shells. We finally rolled a family with a pocket full of shells. Rage Against the Machine. Ok, allora torniamo nel nostro studio perché i ragazzi un po' fanno lezione, un po' studiano, un po' fanno prove di musica di insieme, quindi quando stanno studiando sentiamo delle robe folli alla batteria, doppi pedali che non vanno, che non vanno i piedi per suonare i doppi pedali e fare le quartine. Chi è esperto di musica sa di cosa sto parlando, chi non è esperto si romperà i timpani ascoltando i ragazzi che provano. E poi però insomma fra un po' iniziamo ad arrivare anche alle prove di musica d'insieme, dove strutturiamo dei brani e facciamo insomma qualcosa di un pochino più musicale, diciamo ascoltabile. Due batteristi, uno prova la resistenza con il pedale della cassa e l'altro un nuovo feel che non gli viene. Ecco, questo è il risultato. Le quartine che fai con un doppio pedale non puoi farle con un piede solo. Cioè lo puoi fare, però allenati. Intanto veniva, però allenati, perché non è che fosse precisissimo. Sì, facciamoci venire le tendinite, va? E io non ho capito ancora perché non sono sorda. Lo so che con un piede ti vedo. No, no, aspetta, fammi sentire. Aspetta. C'è un po' di carenza sul piede sinistro, in effetti. No, no, ma anch'io, è una carenza. Anche Fabio c'ha la carenza sul piede sinistro. Prova la tua carenza, vai, facci sentire, doppio pedale. Quando un batterista canta facciamo questa fine qua, perlomeno quando uno dei nostri batteristi canta, perché ci sono ottimi batteristi che cantano benissimo, non solo fanno armonie e cori al cantante, quindi voglio dire, i nostri batteristi sarebbe meglio che si limitassero a suonare la batteria. Yeah. Lou Reed, ed eccoci nel nostro caos di nuovo nello studio. Allora, ma che cosa fate? Non rispondervi di me stessa. Allora, fra poco siamo in maggioranza, perché c'è un pianista, un chitarrista, un bassista, tre cantanti. Siamo in maggioranza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contro 5. Siamo in maggioranza, no batteristi. Cioè, che poi in realtà sono batterista anch'io, però non adesso. Tu sei bravo. Ripartiamo? Vai. Andiamo. Vai. Giuro che no, dite la chitarra! No! No, ma dite la chitarra! E dopo Pino Daniele, Bruno Mars e Lady Gaga, ora vi regaliamo una chicca, perché la nostra mascotte, come vi avevamo già detto in una puntata precedente, si è fissata con il rap e i brani di un amico veramente bravo che ringraziamo per la sua pazienza, perché oltretutto ha ascoltato la nostra mascotte e è rimasto stupito e incredulo di quello che ha sentito, ma con molta pazienza, perché lei gli si è agganciata con mille domande: come si fa, come scrivi, cosa fai, perché lo fai, come ti è venuta l'idea di essere un artista. E questo amico è Murubutu, che ha scritto tra i suoi bellissimi pezzi uno che ha colpito in particolar modo la mascotte, che è Grecale, e si è messa in studio con il nostro idrofonico super speciale, che per l'occasione si è prestato a riarrangiare un pochettino la base anche per lei, insomma fare le doppie voci, fare un pochino di lavoro su questa cosa. E la mascotte ci tiene tantissimo a farvi ascoltare una prima prova di quello che è successo. Poi in futuro vi manderemo il brano completo quando la nostra star deciderà di finirlo. Ma intanto ascoltate questa prova di studio, perché insomma dai, se lo merita la nostra mascotte. Stesse scarpe bianche, guance calde, buio che si espande mentre lei diventa chi la raggiunse fra i suoi nastri sussurrando lei, dai, dai, dai, fidati di te, riuscirai, riuscirai, e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento, dai un nome al vento con il quale danzerai. Segui il vento a tempo, quattro sensi a tempo, quanta grazia al vento quando danza tu l'avrai. Grande mascotte, ma sei mitica! Grazie! Ma hai fatto un capolavoro, ma rappi benissimo! Grazie! Oh, come ti vedo mogia oggi, mascotte, è successo? Grazie! Ah, sai dire solo grazie? Grazie! Ok, va bene, quindi niente! Grazie! Oh, ok, mascotte, ti è piaciuta grazie. Questa puntata? Sì, grazie! Ok, gentili ascoltatori, la mascotte è andata in loop, quindi sì, grazie. Ci sentiremo sì, grazie. La prossima settimana, sempre alle 13, mercoledì, su Radio Città. Grazie. Fujiko, grazie mascotte, grazie. Grazie. E quindi grazie a tutto lo staff di Dedicato, a tutti i ragazzi che hanno suonato e hanno partecipato a questa puntata fantastica, quindi grazie a Stefano, a Giuseppe, a Lollo, a Fabio, Alessio, Mark, Yuri, grazie veramente di essere stati con noi, Alessia, la nostra piccola cantante, poi grazie a Noemi, grazie alla mascotte, ci mancherebbe altro, e grazie a Federico anche, e poi grazie a Mario che è il nostro super bassista che ci accompagna nonostante la nostra follia. E che dire, grazie, lo staff di Dedicato è questo, e poi vabbè, in realtà c'è tanto altro, però in questa puntata direi che siamo stati numerosi, musicali e soprattutto un po' batteristi, perché il numero dei nostri batteristi supera assolutamente qualunque altro strumento presente nel nostro staff, quindi se abbiamo un chitarrista abbiamo tre batteristi per ogni altro strumentista, quindi niente, questa è un po' la nostra croce ma anche la nostra grande qualità. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché, ai dimenticati, a playboy finiti e anche per me, a chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo.